La mappa ti andasse non lo cavallo non è un luogo, è una, è un nome, basta, non c'è un paesino, è in mezzo a questo deserto, sono stato una cosa. In mezzo a questo deserto sotto il palazzo della nazione, c'è già una certa dimensione. Questi saloni vuoti. Ma è un viaggio proprio, è veramente un viaggio. Guarda, 15 metri. Mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede.